Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli e Don Willy Volonté. Buona domenica da Katia Caramelli. Il Papa arriverà a Santiago de Cuba domani, dove sarà ricevuto dal presidente Raul Castro e dai vescovi cubani. Nel corso della visita il pontefice dovrebbe incontrare anche Fidel Castro. Improbabile invece un incontro con i dissidenti. Torniamo allora anche oggi a parlare di questo importante viaggio nel solco di quello compiuto nel 98 da Giovanni Paolo II e lo facciamo con il professor Antonio Maria Baggio, docente di filosofia politica, che alla Havana ha portato avanti un progetto di formazione per i laici sulla dottrina sociale della Chiesa. È un paese complesso perché vive intanto una situazione economica che non è soltanto cubana, nel senso che anche il socialismo economico cubano sconta il fatto che nessuna economia socialista è mai riuscita a funzionare bene, quindi non dipende tanto da Cuba quanto da scelte che risalgono a una situazione di blocchi internazionali. Certo che adesso, compreso questo, si avverte la necessità di dare uno spazio maggiore alle imprese private, alle iniziative libere delle persone, solo che questo non si può produrre in maniera automatica e solo spontanea, perché non c'è stata una preparazione, un'educazione a questo, e bisogna anche dire, per la verità, che questa apertura non è del tutto accompagnata anche dai provvedimenti giusti per favorirla, cioè si mantiene ancora una struttura di controllo che non può essere eliminata da un giorno all'altro. E che spazio a suo avviso può trovare la religione? Ha un ruolo importante perché diciamo che si sta dedicando molto la Chiesa con varie iniziative di formazione che sono condotte nelle diverse diocesi per aiutare questo passaggio, quindi è una Chiesa in questo momento che si mette al servizio della società cercando di formare persone che siano in grado di interpretare l'esigenza che c'è in questo momento nel Paese. Poi bisogna anche dire che c'è stato un risveglio religioso molto forte. Da quello che lei ha potuto percepire, c'è attesa per l'arrivo del Papa? Moltissima. Questo lo posso dire proprio con tranquillità, perché tutti gli interlocutori, magari con ragioni diverse, si attendono qualche cosa di importante, come un secondo pilastro dopo la visita precedente nel 98 di Giovanni Paolo II. E vedo che è stato preso molto sul serio il motivo che fu spiegato da padre Lombardi a suo tempo. Il Papa va a Cuba per essere vicino ai cubani in questo momento particolare e complesso della loro storia. Questo è molto sentito. Che cosa potrà fare secondo lei il Papa per i cubani, un po' come molto fece Giovanni Paolo II? Beh, sicuramente porsi in continuità con quanto fece Papa Giovanni Paolo II. Io ricordo le prime parole che disse il Papa appena sbarcato il 21 di gennaio. Le prime due cose furono: Cristoforo Colombo ha definito Cuba come la terra più bella che si possa vedere, e la seconda, immediatamente dopo, la riga successiva, 500 anni fa fu piantata qui la croce di Cristo. Quindi ha sottolineato una presenza cristiana forte e il fatto che la visita era una visita pastorale, cioè di conferma dell'unità e della comunione della Chiesa. Quindi il messaggio forte era: Cuba non è separata, Cuba non è sola, è al centro della nostra attenzione. Sicuramente Benedetto XVI riconfermerà questa posizione, che è importante per Cuba, perché è importante per i cubani sapere che tutto ciò che accade a Cuba non è marginale, ma che è visto, è interpretato ed è sofferto insieme con loro. Ora c'è Don Willy Volonté, a domenica prossima. Shahbaz Bhatti, ministro per le minoranze del governo pakistano, fu assassinato perché cattolico esattamente un anno fa, durante un viaggio a Islamabad. Per lui la fede cristiana e la libertà di esprimere il proprio credo religioso senza impedimenti o limitazioni erano una causa per cui valeva la pena non semplicemente lottare ma anche morire. Alla sua morte seguì una campagna di alto profilo per la liberazione di Asia Bibi, la prima donna condannata a morte ai sensi della legge pakistana contro la blasfemia. Bibi è ancora in attesa dell'esecuzione capitale. Dando la propria benedizione all'assemblea che a Londra commemorava la morte del ministro Bhatti, il cardinale O'Brien arcivescovo di Edimburgo, ha detto: aggiungo la mia voce alle vostre invocazioni per una vera giustizia per i cristiani e per le altre minoranze religiose in Pakistan sotto accusa per blasfemia. Il rispetto per la religione, per coloro che la professano, è segno di dignità culturale e di civiltà, ma è altrettanto segno di dignità culturale e di civiltà non infliggere la pena di morte per chi non rispetta la professione di fede degli altri. I cristiani, lungo i secoli, ne sanno qualcosa, avendo preferito testimoniare con la propria vita la fede che professavano piuttosto che uccidere l'avversario. La religione si impone proponendosi alla libertà, convincendola della verità di essa. Il ministro pakistano Bhatti, responsabile di tutelare le minoranze religiose del suo paese, ha offerto la sua vita perché tutti potessero esprimere il proprio credo religioso, anche se non era il suo credo.